Europa 24. Benvenuti ad Europa 24, dunque tutto rimandato al 30 agosto, non è stato trovato l'accordo nel vertice di Bruxelles che si è concluso nella notte, accordo in particolare sulle nomine, così Sergio Nava? Sì, è così, alla fine la nomina ad alto rappresentante europeo, che era il posto per cui il Partito Socialista e il PD avevano, e lo stesso governo italiano avevano candidato Federica Mogherini, non ha registrato alcuna intesa, nessuna intesa neppure sulla posizione di Presidente del Consiglio europeo. Qui c'era come candidata invece la danese, la premier danese Helle Thorning-Schmidt, e di conseguenza nessuna intesa neppure poi sull'Eurogruppo, presidenza permanente dell'Eurogruppo, dove era candidato invece il popolare spagnolo Luis de Guindos. I veti, soprattutto dai paesi dell'est Europa, hanno pesato, l'Italia ha detto che alla fine non c'è stato alcun veto particolare sulla Mogherini, forse è vero, forse esplicitamente non si è detto no alla Mogherini, però in ogni caso i paesi dell'est Europa hanno fatto pesare il fatto che non il nome di Federica Mogherini, per mancanza di esperienza, per i rapporti che denotano anche appunto la relazione tra Italia e Russia, non andava bene. Soprattutto i paesi dell'est Europa in qualche modo hanno anche detto: aspettiamo, vediamo quali portafogli ci verranno assegnati nella prossima Commissione europea, se sono portafogli di peso o meno, e poi il 30 agosto, cioè quando ci sarà il prossimo vertice, vedremo. Però quale sarà il nome posizione dell'Italia, resta quello. Per il momento il nome dell'Italia resta quello, come ci ha spiegato il sottosegretario agli affari europei Sandro Gozzi, tornato questa notte da Bruxelles, di prima mattina lo abbiamo intervistato, sentiamo. In questo complesso quadro politico abbiamo fatto un passo in avanti, appunto stabilendo il principio che nessuno ha contestato, che il posto di numero due della Commissione, che è l'altro rappresentante, va all'area dei socialisti democratici. Il nome di Enrico Letta non è stato fatto da nessuno dei leader attorno al tavolo, mentre nessuno ha sollevato obiezioni al nome di Federica Mogherini. Però è chiaro che, essendo necessario un pacchetto, un accordo su un pacchetto complessivo delle nomine, si è stabilito il principio di equilibrio politico e si è rimandata la decisione specifica sui nomi a fine agosto. Quindi, se capisco bene, a fine agosto voi riproporrete il nome di Federica Mogherini, è corretto? Non c'è nessun cambiamento, perché tra l'altro non sarebbe un cambiamento solo dell'Italia, sarebbe un cambiamento dei socialisti e dei democratici, che invece hanno indicato che tra queste cariche ritengono che spetti alla centrosinistra il posto di altro rappresentante, e su questo c'è l'ipotesi di Federica Mogherini, e ritengono anche che debba aspettare sempre all'area socialista anche la presidenza del Consiglio europeo. Questa è la linea che è emersa ieri ed è la linea su cui si continuerà, quindi non c'è nessun cambiamento né da parte dell'Italia né da parte del Partito dei Socialisti europei. Sul fronte ucraino invece i capi di Stato e di Governo europei hanno deciso di aumentare le sanzioni contro la Russia. In cantiere c'è il blocco dei programmi in Russia della Banca Europea degli Investimenti e della BERS. I lavori per Pompei dovranno essere completati inderogabilmente entro il 2015, lo ha detto il commissario europeo per la politica regionale Johannes Hahn a Pompei per la firma del piano d'azione congiunto UE-Governo per accedere ai lavori del grande progetto Pompei. Hahn ha sottolineato che finora solo il 25% dei fondi sono stati impegnati. La sfida di Pompei è una sfida per il Paese, ha commentato invece il ministro per i beni culturali Franceschini. In arrivo controlli medici più severi per ottenere la patente. Una direttiva dell'Unione Europea prevede un esame medico più accurato al momento del rilascio o del rinnovo della patente, in particolare su malattie come l'OSAS, la sindrome delle apnee costruttive del sonno, che dà sonnolenza e rende dunque più pericolosa la guida. Sentiamo Enrico Pagliari dell'area tecnica dell'ACI. Da stime a livello europeo, non solo italiane, si è valutato che circa il 22% degli incidenti deriva da sonnolenza alla guida, cioè l'autista, il conducente che ha dei problemi e si addormenta alla guida. Quindi questa visita un po' più accurata nel momento in cui si rilascia il certificato che dà diritto alla patente ha proprio l'obiettivo di indagare se ci sono queste patologie. E qualora queste patologie fossero riconosciute, cosa succederebbe? Il problema grosso è essere abili alla guida o non abili alla guida. Se ci sono queste patologie e si fanno delle opportune terapie, si può guidare, ovviamente dimostrando che si sta seguendo queste terapie. Ovviamente nel caso si accerti che ci sia questa patologia, la validità della patente sarà limitata a un periodo di 2 o 3 anni, quindi non nei canonici 10 anni iniziali e 5 anni seguenti. È tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.